In clinica avevo fatto 4 mesi di psicanalisi quotidiana. Avevo tirato fuori tutto il mio passato e il medico mi disse che avrei dovuto continuare perché avevo molta strada ancora da fare. Per cui sono stata seguita da una donna che, diciamo, una professionista del Vicentino, mi aveva dato 2 nominativi e mi aveva dato entrambi 2 donne, perché secondo lui io avrei interagito meglio con una donna che con un maschio. Non lo so perché io in realtà nella mia vita poi ho sempre lavorato con maschi, ho sempre interagito con maschi, ma lui era professionista, quindi lui avrà visto delle cose che io non ero in grado di vedere. Mi diede i nomi di queste 2 sue colleghe e ne individuai una in particolare con cui iniziai il mio percorso al di fuori della clinica. È stato molto difficile. Una volta fuori, la scelta se andare o meno, se affrontare o meno certe cose, dipendeva soltanto da me e tutte le volte dovevo sforzarmi per convincermi ad andare. Mi ero preparata a una lunga serie di scuse per saltare gli appuntamenti. E fermo restando che il professionista sa esattamente tutte le scuse, tutto quello che gli stai raccontando, a meno che tu non sia in autostrada con la macchina distrutta, e tutto quello che tu gli stai raccontando sono delle finzioni. E quindi anche lì ho detto, bene, quindi mi alzavo, c'erano delle mattine che mi alzavo, aprivo tutto il ventaglio delle scuse e alla fine dell'ultima scusa dicevo, ma tanto mi sgamma immediatamente, per cui è meglio andare a affrontare questa cosa, perché prima la affrontiamo, prima la risolviamo, meglio è. E ci sono delle volte, Mauro, che proprio dici, mamma mia, cioè un tir, credo che andare a sbattere contro un tir significa, cioè soffri molto meno, decisamente molto meno. In questo lavoro lungo anni mi sono accorta che tutte le dinamiche relazionali che io avevo utilizzato per tutta la vita erano sbagliate. Mi ero data dei motivi, delle giustificazioni, mi dicevo che il mondo era brutto e cattivo, che mi avevano sempre trattato malissimo, ma c'era comunque la possibilità di essere qualcosa di diverso. Sei tu che non hai in un certo qual modo deciso di affrontare questa cosa, perché tutto sta nell'affrontare questo tuo malessere che hai dentro, al netto delle cause che possono essere anche slegate da te, cioè nel senso non sei tu la causa di queste cause, ma come nel caso della violenza, come nel caso, ma nel momento in cui queste cose accadono tu le devi affrontare e le devi risolverle e devi essere forte, in questo caso consapevole e responsabile nel voler risolverle prima di prendere altre strade. Rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, tip, tip, tip, tip, tip. What if you did? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you are. We'll be right back.

gli storici raccontavano queste storie, per cui c'era chi raschiava le cortecce degli alberi, seccava l'erba che dava i conigli e la utilizzava come farina per impastare. Perché, come dice Leonce, noi possiamo benissimo mangiare il cibo crudo, ma noi lo cuciniamo perché per differenziarci dagli animali, per far vedere che siamo degli uomini. È un'altra rivoluzione copernicana. La trasformazione del cibo da crudo a cotto è stata una trasformazione della consapevolezza della natura del cibo ad una consapevolezza della natura culturale del cibo. Il cibo cotto è cultura. Il trasformare grazie al fuoco ci rende diversi dagli altri esseri viventi. 11.000 anni fa, quando abbiamo iniziato ad addomesticare i cereali e i mammiferi, abbiamo cominciato a tracciare un percorso di narrazione culturale del cibo e siamo arrivati ad essere quello che siamo adesso. In tutte le culture ci sono elementi simbolici legati al cibo. Esistono pratiche, i cibi delle diaspore, i cibi proibiti dalle religioni, c'è il cibo halal, il cibo kosher, il cibo di magro. Il vegano oggi, in una società molto più laica rispetto al passato, è come se aderisse ad una religione. Chi si toglie determinati cibi, ingredienti, è come se ripercorresse tutta una serie di momenti che l'umanità ha percorso in 11.000 anni. Culturalmente, nella storia dell'umanità, c'è un solco legato al cibo che noi esseri umani non abbiamo mai interrotto. Il panettone di Angelo Motta, brevettato agli inizi del Novecento, è lo stesso impasto simbolico con zuccheri e con frutti secchi, quindi preziosi, secondo tutta la simbologia della frutta, che si confezionava in qualsiasi parte del mondo, nello specifico nell'antico Egitto, durante il periodo delle luci, quando è il momento più buio dell'anno. Durante i momenti di oscurità, l'uomo ha sempre avuto bisogno di attaccarsi a dei simboli per superare l'imprevedibilità del futuro. Il periodo delle luci inizia con il primo di novembre, che sono i morti, ai quali tu affidi i semi che sono nascosti sottoterra, e i morti con chi parlano? Con i bambini, che sono le anime pure. Adesso c'è dolcetto e scherzetto, ma in tutte le campagne, fino a qualche decennio fa, prima del boom economico, si mettevano le zucche fuori della finestra, si accendevano le luci e si davano dei dolcini. Ancora adesso a Venezia, per San Martino, si fanno, i bambini si vestono da cavalieri, vanno in giro a sfidare, e quindi il negoziante o chi alla casa bussata si spaventa e dà un dolce, no? Come pegno. Sono tutte cose meravigliose queste, se vuoi. E questo periodo finisce con il solstizio d'inverno, il 21 di dicembre. Il panettone si mangia a Natale, proprio per questo motivo simbolico, ma è semplicemente quel pane arricchito, presente in tutte le culture, che serve per ripercorrere, per stigmatizzare, per far venire meno una situazione di timore assoluto. Serve per scacciare le tenebre, e questo avviene in tutte le religioni, come in tutte le religioni e in tutti i paesi avviene il periodo del digiuno, che è rituale ed è sempre in un determinato periodo. Il digiuno non lo si fa mai a settembre, lo fai quando la natura si risveglia. E lo fanno gli indiani, lo fanno i buddisti, lo fanno gli ebrei, lo fanno i musulmani, lo fanno i cattolici, lo fanno tutti. Potete riascoltarla quando e come volete questa storia sui nostri podcast, sul nostro sito Linee d'Ombra, sulla pagina di Radio24.it, o altrimenti fate un buon weekend, una buona domenica, insomma quello che rimane di questo weekend, quello che ci rimane di godibile in questi weekend molto molto particolari che stiamo vivendo. Noi torniamo lunedì per raccontare storie, sempre alle 15 qui su Radio 24, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!